a te è piaciuto un mondo. Sì, tu hai sì, noi siamo live, questa è Radio Live. Questa è questo è Altofest 2022, siamo a Napoli, siamo a casa di Chiara Orefice, in Vico Lammatari, e questa è la rubrica Incontro verso disorientamenti post performance in dialogo con gli artisti. Io sono in compagnia di Chiara Orefice, ciao Chiara. Il titolo è bellissimo. Grazie. E Chiara è una performer, una danzatrice, e per il secondo anno consecutivo nel nostro mondo Altofest ha accolto un esperimento di trasmissione performativa di un'opera preesistente, ovvero lei ha accolto sia a casa sua, nel suo spazio domestico, ma soprattutto accolto nel corpo, nella voce, un lavoro di Yotam Peled, che è un artista israeliano che vive a Berlino e che ha quindi ha portato, iniziamo a dire portato, cioè ha provato appunto a trasmettere a Chiara la sua opera Migrena 2x2, a Fugital Experiment Between Berlin and Naples. E appunto il lavoro è stato molto complesso perché, dico molto onestamente, già anche l'anno scorso con Charles Coroneo, il fatto che un artista dovesse... Il lavoro si è incentrato prevalentemente appunto sul discorso dell'emicrania, quindi dell'esperienza di qualcosa che prende la testa, e quindi diciamo più che la traduzione della performance, per quanto all'interno della performance che si è creata live qui ci sono chiaramente degli elementi come il peso inerenti alla performance stessa di Yotam, la condivisione è stata proprio sul topic, cioè su quello che è legato a una forza che in qualche modo prende il corpo, di cui sei preda, e quindi questo ha aperto tutto un discorso sul dolore, sul mistero, diciamo, di una forza che ti prende, di cui non ti sai spiegare le ragioni, che è un'esperienza chiaramente intima, perché questo lavoro è nato durante il tempo della pandemia, quindi diciamo che il topic è un'esperienza molto intima e molto personale. Questo paradossalmente, anche a distanza, anche in una connessione digitale, è stato quello, c'è stata una grandissima intimità, perché chiaramente l'argomento, diciamo, mi toccava, il topic, e quello che è stato in qualche modo tradurre all'interno del mio spazio domestico, che comunque ha anche delle caratteristiche, in forma installativa, innanzitutto questa questione dell'emicrania, cioè intendendo la casa come un corpo. Quindi la casa diventa il corpo di Yotam, dove c'è questa, diciamo, questa forza che entra, e la riflessione è stata molto anche soprattutto su che cos'è, diciamo, il dolore, che è un discorso sull'identità, quindi diciamo la rottura del muro e quindi la ferita come uno spazio che apre ad una trasformazione nello stesso tempo. Cioè, abbiamo tanto diciamo riflettuto sul tema del passato, perché in qualche modo ognuno di noi porta dei pesi, porta delle ferite, porta dei conflitti che non appartengono alla sua storia biografica, ma noi ereditiamo pesi, ereditiamo storie, ereditiamo ferite, perché il corpo biologicamente è diciamo talento. Questo diciamo dal punto di vista dell'artista. Cioè, in realtà un artista vive la sua inquietudine, quindi la sua ferita, la sua fragilità, anche come la spinta a certo. creare. Quindi c'è tutto un discorso, diciamo, sull'oscurità, sulla ferita, sull'inquietudine, su quel mondo che è di instabilità e di mancanza di certezze, che io ho materializzato perché riguardo soprattutto la mia esperienza personale, cioè di costruire, decostruire, distruggere, creare come artista. E quindi diciamo in questa stanza, che rappresenta un po' la stanza dove si muove, che è la testa, dove si muove questa inquietudine che... E quindi è stato molto interessante dal punto di vista dell'esperimento, perché credo che abbiamo creato un dispositivo che ci permette di rendere l'esperimento proposto da Altofest veramente qualcosa di vivo. Quindi non c'è una performance live video che interagisce con, ma c'è proprio un dispositivo che permette di essere in tempo reale connessi. La questione poi della connessione è stata proprio questa, cioè che abbiamo condiviso un punto comune, che era quello appunto del peso, della ferita, del diciamo che poi da un punto di vista diciamo sociale più largo può essere il virus che è stato, cioè qualcosa che investe le nostre vite e scompone completamente l'ordine delle cose. Questo si è tradotto nella mia casa, nel fatto che io ho usato la mia casa come, diciamo, ho materializzato all'interno della mia casa quella che è la sensazione che fa parte di questo viaggio, ed è nato un viaggio. Quello che è stato bello è che comunque la parola migrena mi collega, ora non so se è a migrare. Okay. Quindi esiste un discorso sulla catarsi, esiste una cosa sul viaggio di questo male o di questa forza che ti prende, che entra dentro di te, sconquassa il tuo interno. Penso che ognuno di noi ha avuto questa esperienza nella vita, e però apre una fessura dove in qualche modo c'è una trasformazione. Quindi la catarsi come trasformazione, c'è un discorso anche legato all'identità, cioè rompere questa identità. E quindi no, infatti la seconda domanda che volevo porti, ed è credo che sia molto aderente su quanto hai detto, è il discorso sull'identità. Ovvero, a me ha molto colpito la tua traduzione installativa, il tuo spazio, perché sì, c'è stato un lavoro di traduzione, ma la traduzione si fa in due. E il fatto che in questa installazione sia un'installazione di trappole, che sì, ha una sua coerenza appunto drammaturgica seguendo il discorso di migrena, però poi si lega molto al discorso tuo personale, ed è stato molto bello il lavoro, anche lo spettacolo, abbiamo anche una ferita senza violenta di Chiara sul ginocchio sinistro, perché ho visto realmente, cioè ho visto molto bene come questo esperimento di Altofest abbia centrato il punto. Scusatemi, perché in questa installazione c'è molto di tuo tradotto attraverso una sofferenza, una ferita, un'identità che è di Yotam. Quindi è un dialogo. Io credo che, diciamo, più che la ferita di Yotam, io credo di aver interagito con la mia e ti assoggetta, essere preda di una forza. Mi sono concentrata sul discorso della testa e in qualche modo di stati, come dire, la perdita di orientamento. In qualche modo questo spazio materializza quello che è per me a livello personale una condizione di instabilità e di pericolo, dove comunque, vabbè, la stanza è dark, quindi è buia, però nello stesso tempo il peso, il rapporto col peso, che sono questi mattoni, che in realtà il peso è, i mattoni sono quello che tu di una casa non vedi. Mm-hmm. Quindi c'è, è anche un po' l'interno della casa che viene fuori, quindi c'è come un inconscio che adesso si espone, sono le viscere della casa, i mattoni, quindi in qualche modo è un discorso della testa, ma nella testa ci sono anche le emozioni, e quindi è come se fosse la centrale, mm-hmm. per me la centrale, no, dell'interno della coscienza, e quindi sono le nostre coscienze che sono collegate, cioè noi diventiamo uno, io sono il suo spazio, sono due spazi collegati, sono due teste collegate, sono due emozioni collegate nello stesso tempo, sono due case collegate, a un certo punto sono due corpi collegati, in qualche modo sono due corpi nella stessa situazione, perché attraverso quel foro passa questa. Quindi c'è un discorso anche legato all'empatia, al fatto che tu, quando sei in relazione con l'altro, che in questo caso sono due spazi, Berlino-Napoli, ricevi il peso dell'altro. Io non posso più vedere, poi la questione di riuscire a vedersi o non vedersi fa parte della performance, quindi quanto riesco a non connettermi, quindi come dire, cioè, lo stesso dispositivo è funzionale alla questione della connessione con l'altro rispetto a un punto di intimità che è la ferita, perché noi comunque ci tocchiamo sul piano di quello che ci tocca, è sempre quello che ci muove, è quello che ci brucia, è sempre quello che ci riguarda e che ha a che fare con le nostre, diciamo, zone infiammabili. Esatto, ha a che fare con la parte viva dell'esistenza, sì, molto probabilmente. Però è un'occasione, diciamo, no? Certo. La crisi, diciamo, dal punto di vista più grande, perché poi si è aperto un discorso anche un po', diciamo, più collettivo, la crisi è anche un'occasione per rimettere in discussione un ordine, quindi esatto. C'è un po' una sensazione che un ordine sta frantumando, che mm-hmm. diciamo le categorie o l'ordine prestabilito non regge più, e quindi esatto. Tutto sta un po' crollando, e questo fa parte un po' dell'installazione, diciamo, della stanza. Poi c'è la questione della catarsi, cioè di cosa, come esci rinnovato da un percorso, diciamo, anche un percorso di crisi è catartico, se è consapevole, diciamo che assolutamente, però ci devi entrare, cioè devi accettare, sì, di entrarci, no? L'ultima domanda è così ti libero, perché qualche 20 minuti fa si è conclusa la performance di Chiaroreficio e Yodan Peled. Torno sul tema poetico di quest'anno, di Altofest, e quindi dopo la prima, dopo questa residenza digitale artistica con Yotam, se io ti dico io mondo, tu cosa rispondi? Io già ho dato la mia definizione. Però io penso, quello che anche questa esperienza mi ha ancora di più, diciamo, ho parlato, diciamo, del corpo come radio che capta segnali. E mi piaceva, diciamo, il pensiero che in qualche modo tutto è poroso, compreso l'uomo, che non è al centro del mondo, ma in realtà si pone al centro delle rocce, degli oggetti, ma ogni cosa che esiste ha un'energia. Quindi, diciamo, io mondo è un luogo, io tramundo, è un luogo dove continuamente c'è una vibrazioni, siamo vibrazione, tutto è fatto di tre sostanze, quindi in realtà tutto è uno, però non voglio entrare in questo trip, però siamo canali, cioè quindi per me, diciamo, il corpo, da danzatrice lo dico, cioè il corpo è semplicemente un canale che capta segnali, io lavoro molto in relazione allo spazio e quindi come essere un canale di ricezione di quello che lo spazio a livello di informazioni, a livello di rimanda. Quindi un canale radio, l'io. Il mondo è un, diciamo, è, in realtà è un sistema aperto, per quanto sembra chiuso, però ci sono sempre le possibilità di aprire, diciamo, nuove possibilità di percezione, e questo però lo fa tutto la capa, cioè nel senso che io sono convinta, essendo danzatrice lo dico, che il pensiero è la più grande, cioè come tu pensi le cose poi le vidi. Quindi in realtà il punto è Araba. Assolutamente. Cioè, è avere, diciamo, essere consapevoli di quelli che sono i pensieri o i pensieri inconsci che in qualche modo porti alle convinzioni o le certezze che vanno sempre messe in discussione e Esatto, distrutte. È una quello continua ricerca è un altro lavoro di porosa. Però spazio che cogli. il muro Esatto. pesca stare. Ciao!